sia buona e che il tuo sesso tentativo di toglierti la vita è stato quello decisivo. Quella cattiva è che qual è tuo erede universale. Sono davvero praticato male. Con te meno di niente, ho condiviso nel mondo ancora. Attraversato senza lasciare segno la diversa sorte di ogni singolo destino. Regalerà la mole di un gigantesco libro alla tua permanenza sulla faccia del pianeta. Dedicheremo una pagina vuota. Sei per metà potenza comica, l'altra metà demenza alcolica, impazienza, tracotanza, bolla d'aria isterica. Io sono come te, sottilmente indocile. Come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come te, come mai nemmeno Michelino Nero sopra di te, sotto di te, nei paraggi. Che poi riuscissi veramente a smettere di bere e di fumare. Non farmici pensare, rido da stare male. Male che fa più male se pensa quante volte ti ho dovuto fare da mangiare. Certo che abbiamo una vita diversa, cambia stazione, mi gira la testa. Mai nemmeno Michelino Nero sopra di te, sotto di te, nei paraggi. Che poi riuscissi veramente a smettere di bere e di fumare. Non farmici pensare, rido da stare male. Male che fa più male se pensa quante volte ti ho dovuto fare da mangiare. Certo che abbiamo una vita diversa.